Storie italiane. La sirena e il principe. Molto tempo fa, una nave reale si perse nel bel mezzo di una grande tempesta. Re Ranon e il suo equipaggio fecero del loro meglio per liberarsi, ma la loro nave rimase bloccata su una roccia gigantesca in mezzo al mare. Ben presto i venti si rafforzarono e le acque cominciarono a salire. L'equipaggio era in preda al panico e iniziarono a dire le loro ultime preghiere. Per favore, aiutaci in questi tempi di difficoltà. Liberaci da questa potente tempesta. Quando sulle possenti onde apparve una sirena. Oh, grande re! Mi dispiace terribilmente vederti in questa situazione. Posso liberare te e la tua nave? Gli occhi di Re Ranon brillarono di speranza. Ma, in cambio, devi promettermi di darmi il tuo primogenito. Il Re Ranon aveva ardentemente desiderato tenere suo figlio e ora il pensiero di rinunciare al suo erede gli fece venire le lacrime agli occhi. Vedendo i volti pieni di panico, il re accettò l'accordo della sirena. Va bene, sono d'accordo. Non appena ebbe accettato, una grande onda trasportò la nave via dalla roccia, in mare aperto. Mesi dopo, la regina diede alla luce un maschietto. Re Ranon aveva dimenticato da tempo la sua promessa alla sirena. Ma che bel bambino che è! Lo chiamerò Principe Aaron. Il principe Aaron crebbe fino a diventare un principe forte e bello. E presto il ricordo della promessa tornò a Re Ranon. Nostro figlio è addestrato abbastanza bene. Dobbiamo mandarlo nel vasto mondo. È sciocco da parte nostra tenerlo qui nel palazzo, perché questo è il primo posto in cui la sirena verrà a cercarlo. Sono d'accordo con te. Il principe Aaron fu convocato e gli dissero tutto. Era felicissima al pensiero di viaggiare per il mondo. Padre, accetto la tua saggia decisione e subito mi preparerò per il mio viaggio. Benedicimi. Salutò i suoi genitori e se ne andò per iniziare il suo viaggio. Per tutto il giorno camminò su strade tortuose e piccole foreste verdi, godendosi la compagnia di scoiattoli e uccelli, ma presto fu stanco. Mi sento così esausto. Dovrò trovare un posto dove riposare e mangiare la mia cena. Non appena ebbe trovato un punto dove posare la testa, si udì un fragoroso ruggito. Il principe era terrorizzato. Davanti a lui stava una bestia con la testa di un leone, il corpo di un orso e le ali di un colibrì. Cosa stai facendo qui, ragazzo? Io sto fuggendo dalla sirena. Ed io sto cercando qualcosa da mangiare. Io ho del cibo, posso darti da mangiare. Allora dammelo, è passata l'ora di cena e ho molta fame. Il principe Aaron estrasse immediatamente dalla borsa del pane e dei frutti e diede tutto alla bestia. La bestia divorò il cibo in un sol boccone. Era molto, molto gustoso. Sono contento che non ero io. Sei divertente. Ti ricompenserò. Ecco, prendi una piuma delle mie ali. Con questa in tasca, ogni volta che lo desideri, puoi assumere la forma di un possente leone, un grande orso o un rapido uccello in un istante. Il principe Aaron ringraziò la bestia per il suo dono e gli disse addio. Mentre camminava pensò: mi chiedo come ci si debba sentire trasformato in leone. In un istante si trasformò in un possente leone. Vedendo i suoi grandi artigli e la sua criniera reale, scosse la coda in segno di felicità. Bello, mi piace essere un leone, il re della giungla! Il principe Aaron camminò per un po' e poi pensò tra sé: mi chiedo come ci si debba sentire essendo un orso. Appena lo disse, si trasformò in un grande orso con una spessa pelle e una folta pelliccia. Bello! Attente, api! Vengo a prendere tutto il vostro miele! Dopo un po', il principe Aaron pensò fra se stesso. Essere un uccello deve essere così diverso da essere un orso o un leone. Devo provarlo subito! Volando in alto, libero come un uccello, la gioia del principe fu immensa. Presto si imbatté in un vasto regno e decise di andarci. Volò dritto verso il palazzo e vide un gruppo di persone nella sala mangiare. Lì tornò alla sua forma originale e si avvicinò per ascoltare ciò di cui stessero parlando. Il re è stanco di cercare uno sposo per la principessa. Le mostra i ritratti dei principi più belli del mondo, ma a lei non piace nessuno di loro. Come farà a dargli un erede? Se fossi in lei, avrei sposato il primo principe che avesse chiesto la mia mano in matrimonio. Oh, ti piacerebbe! Le cameriere spettegolarono ancora, ma il principe Aaron aveva già smesso di ascoltarle. Si trasformò in un uccello per cercare la principessa. Volò fino al castello e cercò la stanza della principessa attraverso le finestre. Quando finalmente la trovò, volò dritto dentro e mentre volava si trasformò di nuovo in un uomo. Ah! Tu chi sei? Non temere, principessa. Non ti farò del male. E la principessa non ebbe più paura. Il principe Aaron le raccontò tutto di sé. Wow! Infatti, vero? La principessa sorrise. Mi piaci! Cosa devo dirti? Mio padre sta andando in guerra e lascerà la sua spada nella mia stanza. L'uomo che la recupererà per lui avrà la mia mano in matrimonio. Voglio che sia tu quello. Ed io sarò quello. Cavalcherò con il re in guerra. Io ti aspetterò. Il principe Aaron partì e si unì all'esercito del re. E proprio come la principessa aveva predetto, 3 giorni dopo marciarono per la guerra. Erano ormai lontani dalla città, quando il re disse di aver dimenticato la sua spada. Molti portarono avanti la propria spada per il re, ma lui non l'accettò. Non posso andare in battaglia con nessuna spada all'infuori della mia. Colui che la prenderà dalla stanza di mia figlia non solo l'avrà come moglie, ma governerà anche il mio regno dopo di me. Sentendo questo, molti dei cavalieri si voltarono e tornarono in città. Tra di loro c'era il malvagio cavaliere rosso, che era noto per la sua disonestà. Mentre cavalcavano, un piano venne in mente al principe Aaron. Lasciò che gli altri lo superassero e poi si trasformò in un leone e ruggì rumorosamente. Sentendo i suoi potenti ruggiti, i cavalli degli altri cavalieri persero il controllo, mentre il principe Aaron si dirigeva verso il castello. Quando raggiunse il castello, si trasformò in un uccello e volò dritto nella finestra della principessa. Sono qui per la spada, Vostra Altezza. Oh, Aaron, ce l'hai fatta! Ecco la spada di mio padre. Ora vai a vincere la guerra e torna da me. Come volete, Vostra Altezza. Ma ricordate, se non ritorno senza un motivo, sappiate che sono intrappolato. Vada in riva al mare e canti la sua canzone in modo che la sua voce possa guidarmi a lei. La principessa annuì e gli diede metà del suo anello reale. Le baciò la mano e volò fuori dalla finestra. Dopo aver volato per un po' di tempo, al principe Aaron venne sete e decise di fermarsi vicino a un roscello. Ma a sua insaputa, la sirena stava nuotando nelle vicinanze. Mentre si inginocchiò per sorseggiare, la sirena fece sollevare le onde ed entrambe sparirono sott'acqua. Dopo qualche tempo, il cavaliere rosso, che stava passando vicino al ruscello, decise di fermarsi a bere acqua. Fu felice di vedere la spada sulla riva. Wow, sembra che sia il mio giorno fortunato. La raccolse rapidamente e tornò dal re per mostrargliela. Dopo la guerra, il re tornò al suo regno. Lo accolsero con gioia e celebrazioni. Ma quando la principessa vide che il principe Aaron non era tra le file che cavalcava dietro suo padre, il suo cuore si riempì di tristezza. Il cavaliere rosso ha mostrato grande coraggio in battaglia e ha persino recuperato la mia spada prima che iniziasse. E come promesso, sposerà mia figlia domani. L'intera corte esplose di gioia. Sì! Sì! Tutti erano felici, tranne la sposa. Più tardi quel giorno andò in riva al mare e cantò con tutto il suo cuore al mare. Dove sei, oh principe, dove sei? Torna da me, oh principe, mi manchi. Il mio cuore ti desidera, oh principe, il mio cuore ti desidera. In profondità, sotto le acque, la sirena teneva il principe Aaron su un letto di alghe. Mentre ascoltava la canzone della principessa, esclamò: ascolta come la tua amata canta per te. Non riesco a sentire nulla. Ah, ma io posso. Noi sirene sappiamo tutto ciò che accade in superficie. Non è possibile. Non ti credo. Non credi che noi sirene possiamo sentire tutto sulla superficie? No. E non credo che qualcuno stia cantando lassù. Stai solo cercando di fare due chiacchiere con me. Ah, te lo dimostrerò, sciocco umano! Così la sirena lo portò un po' più vicino alla superficie. Puoi sentirla ora? No, non sento nient'altro che il rumore dell'acqua. La sirena lo portò ancora più in alto. Che ne dici adesso? No, non sento altro che il rumore delle onde. Così la sirena lo portò in superficie. Sono sicura che ora puoi sentirla. Sai cosa? Non importa. Subito desiderò di essere un uccello e di fuggire dalle grinfie e dalla sirena. No! Il principe Aaron volò con tutte le sue forze verso la sua amata. Vedendolo, la principessa si alzò piena di allegria. Il tuo amore mi ha riportato indietro. Sono così felice di riaverti, amore mio. Non abbiamo molto tempo. Corriamo a palazzo. Quando raggiunsero il palazzo, la principessa annunciò: padre, quest'uomo afferma di essere più forte del Cavaliere Rosso. Penso che abbia perso la testa. Ehi, è un po' troppo, non credi? Shh! Sire, so che conosci molto bene la magia. Quest'uomo afferma che può trasformarsi in un leone. Perché non gli mostri come si fa? Ora, il Cavaliere Rosso non aveva mai letto un singolo libro di magia, ma credeva di essere migliore di chiunque altro. Provò, fece delle smorfie e piagnucolò. Oh, cielo! È stato doloroso da guardare. Forse un leone è troppo difficile. Perché non provi con un orso? E ancora, il Cavaliere Rosso ci provò e di nuovo fallì. Forse stiamo provando con cose troppo grandi. Perché non iniziamo con qualcosa di piccolo e cerchiamo invece di diventare un uccellino? In realtà io... Puoi davvero diventare un leone? Non appena lo disse, il principe Aaron si trasformò in un leone e urlò con tutte le sue forze. Tutti a corte rimasero stupiti, ma il re non batté ciglio. Che ne dici di un orso? E voilà! Un orso stava al posto del leone. E infine, un uccello? E in un lampo, l'orso gigante si trasformò in un piccolo colibrì. Il re aveva osservato tutto questo con grande gioia, perché aveva capito cosa stesse facendo sua figlia. È questo l'uomo che ha preso la spada? Sì, è lui! È l'uomo che è venuto nelle mie stanze e solo con lui mi sposerò. La principessa disse tutto al re. Scoprendo che il Cavaliere Rosso gli aveva mentito, lo fece spedire nelle segrete. Subito dopo annunciò il matrimonio dei due innamorati e tutti gioirono ancora una volta. Ci fu un'altra festa e questa volta anche la principessa si divertì.